Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E buongiorno a tutti, ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a Due di Denari. Mauro, eccoci qua. Buongiorno Deborah, buongiorno naturalmente anche da parte mia a tutti coloro che ci stanno seguendo. La programmazione ovviamente è un pochino, per così dire, modificata, e anche noi qui a Due di Denari cerchiamo di intervenire sul tema del momento, cioè il coronavirus e le misure che sono state adottate sia a livello nazionale che locale per arginare la diffusione del virus. Ci occuperemo in qualche maniera di quella che possiamo considerare la microeconomia, cioè l'impatto delle misure prese a vario livello fra i cittadini delle zone direttamente e più da vicino appunto interessate al contagio, ma anche tutto il resto della popolazione che in questo momento, soprattutto tra la Lombardia e il Veneto, appunto vive dei momenti di naturale apprensione. Per cui, quali sono i temi che affronteremo? Ovviamente, essendo lunedì, dobbiamo necessariamente occuparci di borsa. Abbiamo ricordato nei collegamenti precedenti come abbiamo in questo momento una seduta definita shock dagli operatori finanziari, e quindi ve la descriveremo tra poco, cercando di capire anche che cosa pensano gestori, operatori appunto professionali di questa giornata, se è destinata a durare ancora un po', fino a quando anche il panorama finanziario non avrà preso le misure dalla emergenza sanitaria. Gli altri temi invece, Mauro, di stamattina, allora, per noi? Faremo un riepilogo anche di alcune indicazioni che sono state diffuse, senza poterli troppo approfondire, lo faremo sicuramente nei giorni prossimi, ad esempio che cosa ha detto di recente l'Agenzia delle Entrate, a che punto siamo con le scadenze fiscali, e poi soprattutto telelavoro, smart working, assenze giustificate, non giustificate dal lavoro, modalità di lavoro a distanza, insomma tutto quello che sta interessando non solo le aree dei comuni proprio direttamente interessati, ma anche ad esempio le grandi città, come sta succedendo a Milano e anche nelle altre regioni a cascata. Sappiamo appunto le dichiarazioni dello stato di emergenza per il Friuli Venezia Giulia, i casi di diffusione del virus ad esempio nel Trentino Alto Adige, e quindi c'è tutta una comprensibile preoccupazione che porta anche a farci delle domande su essere presenti o no dal lavoro, come regolarsi, cosa dire al datore, come organizzarsi. I numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666. Avremo ospite l'avvocato Giampiero Falasca, che come sanno i nostri ascoltatori è un esperto della materia lavoristica. Tutto questo dopo le 11.30 e dopo naturalmente l'approfondimento dei mercati finanziari. Intanto tra le domande che stanno arrivando degli ascoltatori, noi solitamente ci capita di sentire per tante questioni anche di associazione dei consumatori, avevamo pensato se affrontare o meno la questione dell'aumento dei prezzi della mucchina anche sui siti online appunto di e-commerce. A quanto pare c'è stata questa esplosione e speculazioni di altro genere sulle mascherine che sono letteralmente introvabili. C'è un ascoltatore dalla Puglia che ci scrive: il governo dovrebbe emanare un decreto contro gli speculatori sui prezzi di generi alimentari ed altri prodotti. Io su questo non ho visto granché, a prescindere dalle file dai supermercati che abbiamo registrato ieri anche in Lombardia e anche nelle zone laddove in realtà questa condizione di emergenza non è ancora così preoccupante, però magari monitoreremo anche questo, se effettivamente c'è anche chi si approfitta di questa situazione. Per il resto faremo anche un punto su una curiosa situazione già prontamente denunciata questa mattina da un ascoltatore che dovrebbe, e fra un po' ve la racconteremo questa vicenda, bloccare oggi, dando il saldo definitivo, un viaggio che i suoi genitori devono fare fra qualche settimana, ma nelle aree dove c'è la situazione più preoccupante. Il tour operator non sembra intenzionato ad annullare e a cancellare questo viaggio, e lui ci ha chiesto stamattina: devo pagarlo secondo voi o no? Partiremo o meno? Anche di questo parleremo appunto più tardi. Intanto direi di partire con l'inizio con il botto della settimana di borsa. Meteo borsa. Allora, io do semplice lettura delle percentuali che sto vedendo in questo momento, Mauro. Diamo nuovamente lettura delle percentuali. Avvisiamo che sono tutte negative. Diciamo che cercheremo di mantenere un certo distacco. Sedute come questa non ne vedevo io personalmente dai momenti più difficili che i mercati hanno attraversato dallo scoppio della crisi dei mutui subprime, quindi 2008 e 2009. Allora, Milano, l'epicentro in questo momento della crisi sanitaria, chiamiamola così, meno 4,39%. Ma devo dire che anche le altre piazze europee fanno buona compagnia a Piazza Affari. Segno che quindi la preoccupazione c'è un po' ovunque. Non è che uno vende l'Italia per comprare la Germania, questa mattina le vendite sono ovunque. Francoforte meno 3,58, Parigi meno 3,70, do anche le piazze più piccoline, il Belgio meno 3,78, all'AEX di Amsterdam meno 3,85, Londra meno 3, l'Eurostoxx 50 meno 3,33%, l'Asia stamattina negativa in gran parte, soprattutto sulla Corea, la Cina ha chiuso contrastata con qualche in realtà notizia positiva, ma ci facciamo analizzare questa situazione da Laura Tardino, responsabile della clientela istituzionale di Aberdeen Standard Investments. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti. Peraltro, ieri avevamo avuto notizia anche delle società di gestione che oggi in qualche maniera avevano dato indicazione di chiusura dei propri uffici. Mi sembra che la Tardino sia regolarmente in ufficio, ma magari qualcuno ha dato disposizione di chiusura. Questo significa magari anche qualche ripercussione sui flussi finanziari in movimento. Se si lavora un po' meno nelle sale operative, dottoressa Tardino, è chiaro che magari anche qualche elemento di condizionamento da questo potrebbe esserci sui mercati, o no? Ah, sì, direi che in realtà siamo tutte società organizzate in modo tale da garantire una continuità appunto di business in situazioni veramente di stress come possono essere questa. Tra l'altro credo che insomma sia una situazione sì sicuramente seria da considerare, insomma, che ha indotto anche la mia società, a dire il vero, a lavorare da casa insomma i collaboratori, ma ecco, non siamo ancora ad una situazione ecco così grave, ecco, nel senso che il primo messaggio forse che vorrei passare ai radiospettatori è quello veramente di stare tranquilli. Sui mercati la situazione è un po' agitata, adesso poi vedremo anche perché, ma direi che il problema è soprattutto un problema appunto di vita, no? Nella nostra comunità. Io credo che i contagi siano risultati così positivi anche alla luce del fatto che forse abbiamo fatto tanti controlli, possiamo insomma contare su un sistema sanitario che io credo sia una delle eccellenze appunto del nostro paese, per cui insomma mi auguro che così come siamo stati tempestivi nel controllare appunto i casi che via via si stanno palesando, spero anche che il problema rientri quanto prima, ecco. Oggi i mercati sono molto preoccupati, è giusto che lo siano a livello internazionale, come giustamente lo ricordavate voi, viviamo in un'economia reale finanziaria globale, quindi giustamente il fatto che dalla Cina il virus sia passato all'Italia significa che molto probabilmente, solo una questione di tempi, passerà anche agli altri paesi. I mercati erano abituati fino ad ora a scontare notizie positive, veniamo veramente da mesi, da anni di rialzi significativi. È chiaro che una prima notizia negativa, che sicuramente riguarda quello che sarà il rallentamento economico che questo virus porterà attraverso appunto il blocco delle aziende ad ogni livello, certo, perché adesso certo. Veramente gli impianti sono totalmente fermi, adesso lo vediamo chiaramente qua da noi nel nord Italia, ma da tempo in Cina appunto ci sono, non so che cosa sia, ecco sì, qualche telefono che sta suonando, perché stiamo aspettando anche conferme di altri ospiti questa mattina, volevamo fare un focus anche sul settore bancario e adesso vedremo appunto di avere anche qualche conferma da questo punto di vista. No, dicevamo appunto chiaramente, e anche stamattina molti uffici studi di molte SIM stanno proprio provando a quantificare a questo punto quello che potrebbe essere, quantomeno circoscritto a questo primo trimestre, l'impatto sul PIL italiano di questa crisi, e comunque in molti si affrettano a ribadire che sarà momentaneo. Però Tardini, volevo chiederle, adesso stiamo anche cercando di capire quali sono i settori più colpiti stamattina dalle vendite e lo vediamo anche dal quadro europeo, le compagnie aeree, il lusso, la tecnologia, appunto tutti i settori che sono pesantemente condizionati dalla, come dire, crisi economica asiatica, ma fondamentalmente il quadro di fondo complessivo dell'economia mondiale, secondo lei, quanto è destinato a cambiare e ad essere modificato appunto da quello che vediamo oggi? Ma questa è un po' la domanda da un milione di dollari, nel senso che chiaramente il tutto dipenderà strettamente da quanto durerà questa epidemia. È chiaro che nel momento, nel breve termine, potremo sicuramente vedere, e anzi questo è già stato messo nei numeri anche dallo stesso Fondo Monetario Internazionale proprio a fine di settimana scorsa, e probabilmente saranno ulteriormente riviste a ribasso queste stesse stime. Il vero però dubbio rimane su quello che accadrà una volta appunto passata questa epidemia, ovvero sulla capacità di ripresa dell'economia globale. Sarà una ripresa V, ovvero molto veloce, o una ripresa invece più lenta? Questo insomma farà certamente la differenza. Io credo che comunque sia, da un punto di vista finanziario, al momento, vedendo oltretutto i rendimenti, pronto? Sì, sì, la stiamo ascoltando in religioso silenzio, verrebbe da dire. Okay. Prego. Mi sentivo più. I treasury e i bond vedo che comunque hanno rendimenti. Titoli di Stato americani, il decennale americano e quello tedesco, quindi tanto per spiegare agli ascoltatori. Quelli di riferimento sono scesi ulteriormente, a 1,38 il primo, meno 0,49 il secondo, e credo che siano alla luce un po' di questo, di questa ricerca di qualità, no, e di sicurezza, probabilmente destinati a scendere ancora nel breve. Mi chiedo quali saranno le alternative per un investitore che con questi rendimenti chiaramente immagino non possa investire tutti i propri risparmi nelle obbligazioni. Allora sì, esatto. Non c'è il rendimento. No, perché sennò qua poi non ascoltano più due dei denari, visto che raccomandiamo sempre la diversificazione, ci manca pure che questa crisi adesso li porti in un'unica classe di investimento. Intanto stavo ricercandomi le quotazioni dell'oro, credo che siamo intorno a 1678 dollari l'once, ai massimi da 7 anni, quindi in qualche maniera una direzione al mercato l'ha presa. Le volevo chiedere, Tardino, in frangenti come questi in passato abbiamo visto, e di questo il mercato è stato anche largamente convinto in queste prime settimane dell'anno, a fronte di un altro focolaio di crisi, non vorrei manco usare il termine focolaio, ma adesso mi è uscito, ormai è troppo tardi per tirarlo indietro, le banche centrali hanno sempre rassicurato tutti, siamo pronte ad intervenire. Secondo lei, alla luce di quello che avviene oggi e di quello che potrà continuare nei prossimi giorni, le banche centrali hanno delle munizioni adatte per fronteggiare anche questo nuovo calo dirompente dei mercati? Ma sicuramente ci sta. Io mi aspetto che un po' è quello che è stato fatto in Cina nelle settimane passate, no? Alla fine questo virus è partito dalla Cina, abbiamo visto le autorità cinesi intervenire su 3 fronti diversi, no? Sicuramente quello monetario, quello fiscale, hanno fatto qualcosa anche nel settore bancario. Io credo che questo modello sicuramente sarà condiviso anche dai paesi sviluppati, quindi anche le banche centrali, ma soprattutto le politiche fiscali, che credo alla fine siano quelle che abbiamo utilizzato di meno negli ultimi anni, dovranno intervenire per far fronte a questo problema. L'Italia già ha qualcosa detto in termini, per esempio, di appunto misure fiscali. Io mi aspetto che appunto data l'entità dell'epidemia, non mi aspetto insomma che l'esportazione si fermi all'Italia, come dicevamo all'inizio, ci sia da parte appunto delle banche centrali un po' di tutto il mondo una spinta appunto concertata, come è sempre accaduto in passato quando si sono verificate delle crisi appunto di portata globale. Volevo intanto fare una carrellata dei titoli, Mauro, non perché ci sia qualche buona notizia da raccontare, perché perdono tutti e tanto, quelli che perdono meno sono un po' quelli che mediamente vengono considerati difensivi, lo sono anche oggi, ma tuttavia anche loro mettono a segno ribassi fra il 2 e il 3%, sono Telecom, Italgas, Terna, Snam. Nel settore bancario fa capolino Unicredit, meno 3,29%, perché pare che Mustier non abbia nessuna intenzione di andarsene, il gruppo lo ha fatto sapere questa mattina. C'erano dei pettegolezzi, infatti, dei rumors. Esattamente, anzi, come che fosse pronto a traslocare dei CSBC, invece stamattina il gruppo, proprio con una nota ufficiale, ha smentito. I peggiori, Juventus, non si capisce perché. Beh no, invece io credo che sia collegato al rischio di giocare le partite a porte chiuse. Certo. E questo comporterebbe, ma quanto mi sei diventato... E comporterebbe una riduzione netta, certo, degli introiti, perché se così fosse, cioè se lo stato di emergenza viene prolungato e bisogna giocare le partite a porte chiuse, ad esempio esempio quella con l'Inter, tanto per dire, è un danno economico non irrilevante per le società di calcio. Salvatore Ferragamo, meno 7, meno borse per il mondo, Nexi meno 7%, questo gruppo doveva portare avanti una operazione di consolidamento, il mercato ci specula da un po', magari con sia o non si sa con chi altro, era letteralmente schizzato verso l'alto questo titolo, oggi gli operatori incassano immediatamente, tanto è un gruppo pronto a ripartire in termini di quotazione non appena le acque si calmano. Azimut è meno 7, CNH Industrial meno 6,85, tutto il settore automobilistico in tutta Europa in questo momento in grande difficoltà, ma il settore assolutamente più penalizzato è quello dei viaggi, Mauro, e questo ci serve esattamente come assist per... Io posso fare però una sola domanda alla dottoressa Tardino, alla dottoressa Laura Tardino, ringraziandola naturalmente. E la mia è la domanda dell'ignorante, cioè... Questo non è il momento di vendere, mi sembra di capire. Esatto, questo non è il giorno giusto per guardare le borse. Oggi tutto appare assolutamente negativo, reazioni veramente di pancia di fronte alla notizia, peraltro uscita durante il weekend, nel senso che questa escalation, no, sui contagi italiani è stata chiaramente pubblicata durante giorni di chiusura delle borse. Oggi chi è particolarmente spaventato chiaramente vende. In realtà è una reazione, io credo, appunto più di pancia, viene chiamata a volte spiriti animali, no? Con calma vediamo che cosa succede nelle prossime ore, ripeto, perché il fattore più importante è quanto durerà sostanzialmente questa epidemia al di fuori della Cina. Io sono fiduciosa, sono venuta oggi a lavorare, ripeto, quindi credo che in realtà si stia facendo molto probabilmente più allarmismo di quello che andrebbe fatto. Che è meritato. Allora, esatto. Tutti ci auguriamo così con lei, la ringraziamo ancora. E allora noi adesso dobbiamo preoccuparci dei viaggi, giusto? EasyJet a Londra, non ti dico quanto perde, meno 12%, le varie società delle crociere, Carnival, meno 6,5% sempre a Londra, e così appunto strada facendo con tutti gli altri grandi gruppi. Direi che a questo punto occorre capire per quale motivo. Allora, diciamolo a due di denari, dai. Dillo a due di denari. Poco fa ci ha scritto questa mail e noi l'abbiamo subito acchiappata per fare un piccolo approfondimento questa mattina, un ascoltatore da Modena che ci ha raccontato che i suoi genitori hanno prenotato a novembre una crociera per il Medio Oriente, costo 6.000 euro, con una nota compagnia italiana. Questa crociera dovrebbe partire il 2 marzo. Il viaggio prevede il volo fino a Singapore con imbarco per poi visitare Cambogia, Vietnam, Malesia, Thailandia. La compagnia non intende annullare il viaggio nonostante la situazione di quei paesi. I suoi genitori sono molto preoccupati, sono ultra sessantenni, non intendono partecipare perché vogliono preservare la salute. Il punto è che loro oggi, e per questo abbiamo deciso di farlo subito, dovrebbero saldare il tutto, circa 4.500 euro. Ma ritiene un po' anche discutibile per me che la Farnesina non indichi questi paesi come in questo momento paesi a rischio contagio. E ci ha chiesto: cosa faccio? Pago, non pago? E noi l'abbiamo chiesto a Emanuela Bertucci, legale di ADUC, Associazione dei Consumatori. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, dottoressa. Buongiorno a voi. Allora, che cosa possiamo consigliare? I paesi non sono indicati come paesi, diciamo così, a rischio. Guardi, però... allora, la Farnesina in realtà non vieta viaggi nemmeno in Cina, neanche nella regione dell'Hubei. Se andiamo a guardare sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, anche rispetto alla Cina, io l'ho fatto circa 10 minuti fa, le indicazioni che sono date sono si raccomanda di non viaggiare verso la regione dell'Hubei e si sconsigliano i viaggi in altre regioni della Cina, quindi non c'è un divieto. Se anche tenessimo come faro illuminante la Farnesina, ad oggi la Farnesina non vieta assolutamente nulla, quindi non può essere questo il nostro faro. Per quello che riguarda il vostro ascoltatore che vi ha scritto, se i genitori hanno già deciso di non partire, ovviamente non partiranno. Quello che possono verificare è se il contratto che hanno firmato prevede eventualmente una penale da pagare per la rinuncia al viaggio, altrimenti c'è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che dice: quando si compra un pacchetto viaggio, come in questo caso una crociera, che di fatto è un pacchetto, se viene meno la finalità turistica, che è lo scopo del viaggio, viene meno la causa turistica, il consumatore può chiedere anche il rimborso di quanto pagato. Ora, è chiaro che la finalità turistica in un caso del genere è ancora molto soggettivo, perché non è una vera e propria impossibilità a viaggiare. Non è purtroppo questo il caso, si tratta di una scelta, diciamo, di prudenza, magari ansiosa, ma in generale di prudenza, anche perché abbiamo visto la vicenda della Diamond Princess. Esatto, stavo proprio dicendo questo, un focolaio, certo. Appunto. Quindi uno magari è un po' preoccupato, specialmente stiamo parlando anche di due persone ultra sessantenni, quindi giovanissime per carità, però che magari hanno tutto il diritto di non andare a prendersi una quarantena chissà dove dall'altra parte del mondo. E quindi ecco, in un caso del genere, se io fossi loro avvocato, gli direi: allora, se volete stare più tranquilli, verificate eventualmente il pagamento di una penale che si può fare e quindi chiudetela con poco. Altrimenti non pagate, comunicate alla compagnia con una raccomandata, con una PEC, quali sono le motivazioni, appunto invocando proprio il caso della Diamond Princess, la finalità turistica che viene meno, e dopodiché avrete tempo e luogo sia di ragionare con la compagnia e trovare, diciamo, un accordo che non sia il pagamento totale, sia eventualmente valutare in un secondo momento con una maggiore serenità se procedere giudizialmente oppure no, ecco, però certo. Non sentirsi presi per il collo a dover pagare oggi e saldare un viaggio che sanno che non faranno. Stavo già temendo che lei dicesse un'altra cosa, prendendo per il ci, ma l'avvocato collo. No, quindi insomma possiamo provare adesso, a meno che non l'abbiano già tentata questa strada i nostri ascoltatori, quantomeno di negoziare qualcosa di alternativo con la compagnia. Vabbè, io mi impegno a non mettermi di traverso con un legale rispetto a quanto tu vuoi fare, cioè partire lo stesso e non restituirmi la capacità, ma almeno veniamoci incontro, dammi una destinazione alternativa, fammi partire, che ne so, settembre prossimo, vado da un'altra parte ma non perdo i soldi e li, come dire, convertiamo in qualcos'altro. Mi sembra più che ragionevole. Bene. E poi vorrei, se possibile, dare un consiglio, certo, per chi acquisterà viaggi per il futuro da oggi in poi, perché comunque si continuerà a viaggiare nel mondo, salvo appunto sviluppi che vedremo, e qualsiasi cosa acquistiamo, acquistiamolo con un'assicurazione per la cancellazione. Deve essere sempre prevista questo tipo di assicurazione, no? Quando ci rivolgiamo a un operatore? No, deve essere richiesta e viene anche pagata dal consumatore, per cui io posso pagare un'assicurazione se annullo il viaggio per motivi di salute o per motivi più vari. Il mio consiglio è di stipulare un'assicurazione, perché è una spesa che sinceramente vale la pena di fare in questo periodo, e di verificare attentamente che questa assicurazione copra le cancellazioni per qualsiasi motivo, perché potrebbe capitare che appunto siano esclusi dall'assicurazione i casi di calamità naturale, epidemie, cosa che invece è proprio quello che noi in questo momento vogliamo assicurare. Ecco, tra l'altro, avvocato Bertucci, ma ne parleremo magari nei prossimi giorni, qui il rischio è che si configurino dei contenziosi non solo con i paesi esotici ma anche in casa nostra, perché appunto c'è stata questa notizia di questi albergatori che a Ischia volevano impedire l'accesso ai turisti dalla Lombardia e dal Veneto. Poi il prefetto ha detto: guardate, è una misura che non potete assolutamente anche prendere. Anche la Basilicata sta facendo qualcosa del genere. E aggiungo, Luca da Lecce ci scrive: la figlia oggi doveva partire per viaggio di istruzione a Londra, posso chiedere rimborso? A, per quale motivo non parte? B, bisogna capire anche che scali fa, perché se fa Roma e Londra non capisco quale di quale natura possa essere il problema. Quindi poi adesso non facciamoci venire anche la psicosi da viaggio, perché no, qua è veramente la fine di tutto. Quindi insomma, avvocato, noi la prenotiamo sì, anche per i prossimi giorni. Stand by, grazie all'avvocato Emanuela Bertucci per essere stata con noi, legale ADUC. Vado a raccontare un'altra volta la borsa? Beh, dacci proprio un flash magari, dai, le borse. Questi due, la Rosciani e l'altro lì, tutto con sta pergamena, con sta cacchela. Due di denari. Buongiorno, sono stato adesso a un supermercato nell'Interland milanese, attrezzato sul Naviglio, coda da peggior sabato, non so, proprio sabato pomeriggio prima di una festa importante tipo Natale o Capodanno. Ecco, ho detto tutto. Ovviamente igienizzanti per la mani, introvabili. I'm in a high. Oggi è il Black Monday, ragazzi, bisogna comprare a tutto spiano, che quando si calmano le acque si fanno dei guadagni eccezionali. Comprare. Guarda, un po' modestamente stamattina l'ho pensato anch'io, che non faccio queste operazioni perché poi non vorrei che vi metteste in testa chissà che cosa, ma onestamente gli operatori professionali vi posso assicurare che oggi prendono a sconto un bel po' di società, tra oggi e domani, magari sì, domani. Il comprare del secondo ascoltatore non era lo stesso comprare del primo ascoltatore che abbiamo sentito. Perché appunto l'uno parlava di questi casi anche di, potremmo dire, accaparramento, sì, che si sono verificati qui nel milanese e non solo nel milanese, da quanto ci riferisce appunto l'ascoltatore, l'altro invece delle come comportarsi, diciamo, con i mercati finanziari. Cara Deborah, qui ci sono un po' di notizie sparse da segnalare. Allora, prima di partire con l'avvocato Giampiero Falasca, che peraltro ci ha già raggiunto telefonicamente, che ringraziamo per essere con noi, perché so che il suo studio legale ha peraltro attivato una task force proprio per dare tutte le informazioni alle aziende che ne hanno bisogno sulle questioni dello smart working che si sta attivando da molte parti. Avvocato, intanto grazie per essere con noi e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Volevamo dare, sì, prima di partire con l'approfondimento con lei, un paio di notizie che magari ci sembra utile comunicare ai nostri ascoltatori. La prima riguarda il settore bancario, Mauro, perché ieri intanto l'ABI, l'Associazione delle Banche, ha fatto una comunicazione utile sulle iniziative in qualche maniera di sistema che si potrebbero prendere da qui alle prossime ore. Intanto ufficialmente però ti dico che Intesa San Paolo, che ieri aveva reso noto che aveva disposto la chiusura delle filiali nei comuni oggetto dei provvedimenti governativi, quindi i 10 comuni appunto della zona di Codogno interdetti in questo momento ad ogni movimento, allora poco fa abbiamo saputo che il gruppo sospenderà i mutui per tutte le famiglie e le imprese della zona rossa, ma oltre a sospendere i mutui sia per imprese che per famiglie della zona rossa, ci hanno fatto sapere: metteremo a disposizione delle misure straordinarie per sospendere i pagamenti di mutui per imprese che non sono nella zona rossa ma che sono impattate comunque dal tema coronavirus. Quindi altri dettagli seguiranno, ad esempio imprese che lavorano con la Cina e che in questo momento hanno visto un drastico ridimensionamento del loro giro d'affari e che quindi dovranno fronteggiare in qualche maniera. Io invece mi occupo di segnalare quanto ha detto l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha segnalato che ovviamente sono chiusi due punti che sono quello di Codogno, l'Agenzia delle Entrate di Codogno, e lo sportello di lode di Agenzia Entrate Riscossione. In un comunicato che è stato diffuso ieri, l'Agenzia consiglia naturalmente di rivolgersi soprattutto all'ambito dei servizi telematici. L'Agenzia ci ha fatto anche sapere, per le vie brevi, cioè proprio l'abbiamo interpellata prima della trasmissione, è necessario, se dovesse esserci la necessità di uno spostamento di scadenze, è necessario un decreto del Ministero dell'Economia. Probabilmente tutta questa misura andrà insieme al cosiddetto secondo decreto legge, quello che il governo dovrebbe varare in questi giorni, proprio in questi prossimi giorni, voglio dire già da domani, già oggi o domani, per gli aiuti alle imprese e per anche gli aiuti ai contribuenti. Per le altre invece esigenze, ad esempio per richiedere anche un duplicato della tessera sanitaria o del codice fiscale, non è necessario materialmente andare all'ufficio dell'agenzia, si può richiedere anche telematicamente. Questo quanto hanno spiegato l'Agenzia di Entrate e Agenzia di Entrate Riscossione. L'ultima notizia che vorrei dare riguarda invece gli spostamenti che avremmo avuto intenzione di fare nelle prossime ore con le Ferrovie dello Stato, quindi con il gruppo Ferrovie dello Stato, con il gruppo delle Ferrovie Italiane. Adesso, a prescindere dal fatto che il gruppo ha deciso di installare a bordo treno dispenser di disinfettante per mani, il personale viaggerà con apposito equipaggiamento protettivo, mascherine con filtro, guanti monouso, ma se io ho deciso di non partire più perché non voglio circolare in queste ore in ambienti affollati, allora il gruppo ha fatto sapere che c'è ancora la definizione in corso di termini e modalità di rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate. Allora, io e te lo smart working, secondo te potremmo fare tu a casa tua e io a casa mia la trasmissione? Ma la vedo un po' difficile, però guarda, chiediamolo a chissà, cioè all'avvocato Giampiero Falasca. Avvocato, innanzitutto perdoni la pedanteria, per tutti gli appassionati della materia, tra cui penso di annoverare anche lei, segnalo che la Gazzetta Ufficiale è uscita in via del tutto straordinaria il 23, cioè ieri domenica, il 23 di febbraio, e riporta il decreto legge numero 6, che è quello con le misure urgenti, quello per appunto stabilire i possibili interventi e le limitazioni, e poi un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci interessa molto perché contiene tra le misure urgenti di contenimento anche delle previsioni su che fare con lo smart working, cioè lavorare, non recarsi al lavoro. Questo è un po' il quadro da cui partiamo. Cosa possiamo dire in linea generale, avvocato? Sì, il decreto contiene una grande novità, cioè viene detto che per le zone considerate a rischio, quindi oltre la zona rossa, no? Non solo la zona nei comuni interessati dal contagio, ma nelle zone considerate a rischio è possibile applicare lo smart working in via unilaterale, cioè senza che ci sia un accordo con il dipendente. Questa è una grossa novità, perché abitualmente serve un accordo anche abbastanza circostanziato, che io mi ricordi. Esatto. Noi con la task force di cui parlavate prima stiamo proprio preparando da sabato degli accordi di smart working per le aziende da mandare ai dipendenti, con il quale regolamentiamo il fatto che si lavori da casa, cioè ci vuole un pezzo di carta, diciamo così, con il quale si regolamenta quando si sta a casa, quali strumenti digitali si utilizzano, il diritto alla disconnessione, insomma una serie di legittime formalità e regole che di solito devono disciplinare lo smart working. Qui, vista la situazione di emergenza, si è dato uno strumento in più, cioè si dice: attenzione che si può fare anche unilateralmente, perché non si sa ovviamente cosa accadrà nei prossimi giorni e non si sa quanto ci sarà bisogno di questo strumento. Diciamo che è diventato il protagonista negli ultimi 2 o 3 giorni, no? Prima ne parlavano solo pochi addetti ai lavori, adesso molto semplicemente si dice di lavorare da casa, come ha detto giustamente. Certo, naturalmente ci stanno scrivendo molti ascoltatori che dicono: ma se io faccio il commesso in un negozio, questo però è un po' impossibile ovviamente svolgerlo in modalità remota. No, esatto, però lì afferisce ad un altro provvedimento. Se una regione dispone la chiusura degli esercizi commerciali in un comune e tu non puoi andare a lavorare, il punto è lì in che tipo di condizione ti mette l'azienda, in ferie forzate, c'è un permesso. Si parlava anche di una possibilità di cassa integrazione, no? Che potesse essere però disposta dallo Stato, ma lì ancora brancoliamo, mi pare, avvocato, un pochino nel buio da questo punto di vista. Sono tanti gli strumenti. Allora facciamo caso per caso. Se fai un servizio e lo puoi svolgere da casa, lo smart working è uno strumento. Se invece svolgi un'attività manuale o che comunque richiede la presenza fisica, noi immaginiamo la catena di montaggio, il commesso, il cassiere e quant'altro, e qui allora o l'attività commerciale resta aperta e non ci sono rischi per la salute, altrimenti, se diciamo l'attività commerciale deve chiudere, delle due l'una, o il lavoratore sta in permesso retribuito, cioè lo paga l'azienda, oppure rientra negli ammortizzatori sociali. Cioè avvocato, cassa integrazione. Mi stanno dicendo che il collegamento telefonico non è buono, allora abbiamo un'ottima occasione per ripristinarlo. Sì, guarda, ascoltiamo le condizioni della viabilità, cioè in una parola il traffico. Di denari. Buongiorno, sono il responsabile del consorzio Terre Alte che opera nella provincia di Lecco e gestiamo dei mercati agricoli di produttori agricoli coperti in strutture in ordine a posto, e a oggi non sappiamo se potremo rimanere aperti o no nei prossimi giorni, considerando che la nostra apertura è una volta alla settimana, massimo 2 volte alla settimana. Non si capisce, come al solito, la politica di 2 pesi 2 misure. I supermercati possono rimanere aperti e sfido io a vedere che non ci siano degli assembramenti alle casse e nei luoghi di vendita dei supermercati, mentre nei mercatini dei produttori agricoli, che ci vanno poche persone, invece si debba porre la chiusura. L'assessore non risponde, a quanto pare, perché sui mercati agricoli per ora non è stato indicato nulla. Vi ringrazio, vi saluto, buongiorno. Sono tanti i temi che dovremo affrontare in questi giorni con queste misure inedite di limitazione, di modifiche nei movimenti, anche limitazione della libertà di movimento. Intanto dobbiamo dare un annuncio veramente di quelli fastidiosi. Allora, la Polizia Municipale da Piacenza avverte che ci sono delle telefonate da parte di sedicenti operatori sanitari, sono dei truffatori, millantano la necessità di eseguire a domicilio il tampone per rilevare il coronavirus. Non è così, sono dei truffatori, non funziona in questo modo. La modalità del prelievo con tampone è una procedura molto più articolata, è stata descritta dai giornali, l'abbiamo raccontata qui a Radio 24, se riguarda solo e soltanto chi ha un motivo di pensare di essere entrato in contatto, esatto, con qualcuno. Siamo noi che dobbiamo chiamare eventualmente l'assistenza e casomai poi ci richiamerà l'azienda sanitaria locale. Quindi se ricevete telefonate, lo avvisano per il comune di Piacenza, ma queste, purtroppo queste cose, queste iniziative pessime poi trovano subito degli emulatori. Se ricevete telefonate di gente che vi dice devo venire a casa sua a farle il tampone per rilevare il coronavirus, è un truffatore. Tutto ciò premesso, invece, avvocato Falasca, torniamo a noi e a coloro che non possono, non vogliono recarsi al lavoro, perché allora, due domande: lavorare da casa comporta qualche effetto sulla retribuzione? No, diciamo un effetto indiretto è che non si riesce a tracciare con precisione lo straordinario e quindi concettualmente sarebbe possibile fare straordinario, è un po' più difficile dimostrare di averlo fatto, ma diciamo la retribuzione è la stessa, identica, e anzi non si può essere penalizzati, cioè non è che si può dire siccome lavori da casa ti riduco del 20%, lo stipendio è quello e tale deve restare. L'orario deve essere quello abituale sostanzialmente. Esatto, l'orario deve essere quello abituale. Diciamo che il vantaggio dello smart working è che ci si può organizzare l'orario in maniera un po' più flessibile d'accordo con il datore di lavoro, cioè non è detto che si debba stare seduti dalle 9 alle 5, se il datore di lavoro non ha questa esigenza ci si mette d'accordo, ma l'orario concettualmente è lo stesso identico, cioè vanno fatte le ore contrattuali. L'ipocondriaco, avvocato Falasca, che non abita esattamente in zone a rischio o magari in prossimità delle zone a rischio, un po' intimorito da tutto questo montare di notizie, decide unilateralmente di non andare al lavoro e si mette a disposizione dell'azienda e garantisce che farà tutto da casa, ma non ha né nessuna autorizzazione, non è passato dallo studio di Lea Piper per fare nessun accordo con l'azienda. In questo caso comunque mi pare che questo provvedimento, nelle righe che Mauro mi ha fatto sbirciare prima, contempli anche velatamente questa possibilità. Ma allora, diciamo qui secondo me ci vuole un po' di buon senso. Cioè, se l'azienda non è effettivamente a rischio, e quindi parliamo del vero ipocondriaco, no? Categoria a cui tutti noi abbiamo una leggera simpatia, diciamo, l'azienda dovrebbe probabilmente usare il dialogo. Formalmente quella persona è assente ingiustificata. Sì, l'assenza ingiustificata peraltro comporta sanzioni anche molto gravi, ecco questo. Beh, sì, se si supera da sempre. Per molti contratti collettivi dopo 3 giorni si scatta il licenziamento, però io in una situazione del genere credo che le aziende, io l'ho scritto sabato sul Sole, no? Le aziende devono dimostrare vitalità e capacità di rivedere il loro modello organizzativo, devono essere pronte al cambiamento. E una di queste prontezze in questi giorni è saper parlare con i dipendenti, perché ovviamente non è il caso in questi giorni di usare la clava delle sanzioni disciplinari. Allora si spiega all'ipocondriaco che sono state adottate misure di sicurezza, che non c'è nessun rischio e quindi bisogna recarsi al lavoro. Anche perché comunque l'assente ingiustificato, anche se non viene sanzionato, per quel giorno perde lo stipendio. Misure di sicurezza è una cosa importante, perché le aziende da parte loro invece potrebbero dire, ad esempio, state pure a casa, cioè lavorate da casa. Dall'altra parte però le aziende devono invece prevedere tutta una serie di misure per come dire, assicurare un posto di lavoro sicuro ai dipendenti. Eh sì, le aziende stanno sedute su un problema grosso come una casa, che si chiama giustamente problema doveroso articolo 2087 del codice civile, cioè le aziende devono garantire la massima sicurezza possibile ai propri dipendenti. Quindi in questi giorni devono giorno per giorno essere documentatissime sulle misure da prendere e adattare, direi giornalmente, la strategia al contesto che muta. Quindi addirittura invitare i dipendenti a stare a casa può essere una di queste misure se è resa necessaria della situazione. Quindi bisogna avere il medico aziendale sempre a fianco per le imprese che stanno nell'ambito dell'obbligo del medico aziendale, bisogna comunque consultare le informazioni e delle autorità sanitarie, bisogna avere un atteggiamento attivo e proattivo, non limitarsi ad aspettare i decreti. Sì, certo, o le indicazioni. L'articolo del Codice Civile che lei ci ha ricordato e che comporta appunto l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare le maggiori condizioni possibili di sicurezza per i lavoratori vale a prescindere dal numero di lavoratori impiegati dall'azienda, cioè anche attività molto piccole, tutti, il negozio e il commesso, per capirci. Tutti. Il datore di lavoro in quanto tale deve preoccuparsi di dare la migliore tutela tecnicamente possibile, quindi non c'è un minimo sindacale fatto il quale si sta a posto, cioè il datore di lavoro deve dare il meglio di sé nella tutela della sicurezza, quindi questo fa capire quanto le imprese siano oggi in questi giorni sollecitate a gestire la tematica, no? E questo non vale solo per i comuni, i comuni della zona lombarda o della zona veneta, ma in generale per le regioni che hanno stabilito delle misure. Quindi andiamo dal Piemonte per arrivare fino al Friuli, passando per Lombardia e Veneto ed Emilia Romagna. Ma aggiungo di più, un'impresa, facciamo finta un'impresa romana, sì, che abbia dei dipendenti che in questi giorni, anche il mio studio ha una sede a Roma, che devono recarsi a Milano, ha il dovere di ridurre al minimo gli spostamenti, perché comunque c'è una potenziale esposizione e quindi bisogna adottare delle misure di cautela che siano adeguate al contesto. Quindi nessuno può, scusate il brutto esempio, può lavarsi le mani della vicenda, anche se bisogna lavarsene. Tutti dobbiamo lavarci le mani, esatto. Nessuno se ne può lavare le mani, cioè può disinteressarsene, esatto. Insomma, esatto. Questo volevamo dire. Avvocato Falasca, in questi contratti che state scrivendo in questi giorni per le aziende, come ci stava dicendo prima, task force operativa da voi da sabato scorso, per che tipo di durata state pensando, appunto, stanno pensando di stabilire dei rapporti con i lavoratori in smart working? Per quanto tempo? Esiste questa condizione nel contratto oppure diciamo è a tempo indeterminato? Esatto, noi stiamo ragionando molto sul fin tanto che dura l'emergenza e quindi auspicabilmente per periodi brevi, perché adesso l'orizzonte che abbiamo tutti in mente adesso sono i 7-10 giorni, no? Mi pare di capire, sì. Anche se avete notato il DPCM si dà un'efficacia di 14 giorni, sì. Quindi ora parliamo proprio di primissima emergenza, cioè per isolare il virus e quindi fermare le persone e poi vediamo. Anche perché noi stiamo ragionando, non è una materia di lavoro, ma insomma l'impatto su tutti i contratti, i contratti commerciali. Ed è una situazione assolutamente anomala, quindi come ha detto ci vuole un po' di buon senso. Avvocato Falasca, ovviamente le chiediamo di restare a disposizione anche nei prossimi giorni, perché penso che non abbiamo davvero esaurito gli argomenti. Grazie. Grazie, Deborah. Mauro, domani secondo me dobbiamo occuparci della questione che ci stanno sottoponendo molti ascoltatori. Saltano le gite scolastiche, viaggi di istruzione, soldi in ballo e chi me li ridà? E allora grazie per i vostri suggerimenti, continuate a mandarceli a 2 di denari @radio24.it per i temi di economia piccola che